edizione. Eccoci coi giornali in mano per vedere quali sono i temi di oggi. Apertura pressoché unanime, si guarda al futuro della Banca d'Italia. Oggi arriverà il nome, ha detto il presidente del Consiglio Berlusconi. Allora eccoli i titoli, Corriere della Sera. Tensione su Binismaghi, il premier indica oggi il governatore. Voci di dimissioni di Saccomanni, se non sarà indicato appunto come presidente di Banca Italia. La Stampa, Banca Italia oggi il governatore, Binismaghi favorito. Napolitano al governo, subito riforme per la crescita. Il Messaggero, duello finale anche qui su Banca Italia, oggi la lettera del premier, ma qui si dice Saccomanni resta in corsa, tanto per farvi capire che la situazione è ancora tutta da vedere. La battaglia su Banca Italia anche per la Repubblica, Berlusconi punta su Binismaghi, Via Nazionale e Quirinale resistono però alle indicazioni del premier, scrive la Repubblica. Tra gli altri candidati, oltre a Grilli e Saccomanni, spunta anche il nome di Anna Maria Tarantola. Vertice d'emergenza per l'euro, l'apertura invece del Sole 24 Ore. Divergenze sul fondo salva stati, l'incontro ieri sera tra Merkel, Sarkozy, Draghi, Trichet, Fondo Monetario Internazionale. Proprio dicevamo poco fa anche noi per l'addio di Trichet alla Banca Centrale Europea. Altre notizie dalle prime pagine, andiamo in taglio centrale del Corriere della Sera. Mutui alle giovani coppie, pagelle solo online, ipotesi concordato fiscale, decreto sviluppo, ecco le misure allo studio, scrive il Corriere della Sera, che ci riporta anche un'altra notizia curiosa. L'immagine a centro pagina è quella di Superman, l'eroe dei fumetti. Acquisiti i diritti digitali, librerie in rivolta, Super Amazon prende anche i fumetti, sempre più libreria online ma anche cartacea Amazon. La Stampa, centro pagina, l'immagine è quella di una bimba con la pagella in mano, perché appunto nel decreto sviluppo c'è anche questo, addio pagella, adesso arriverà online, scrive La Stampa. Stampa, quotidiano di Torino, che dedica ampio spazio anche alla manifestazione di domenica in Val di Susa per la TAV. TAV sia la protesta ma lontano dal cantiere, una zona rossa per fermare il corteo, così scrive La Stampa, che aggiunge, ve l'abbiamo raccontato anche noi ieri mattina, dall'Unione Europea arriva l'ok, opera finanziata fino al 40%, Bruxelles vara il piano delle reti, la Torino Lione, la contestata TAV, è finanziata intanto dall'Europa ed è considerata anzi progetto prioritario per l'Unione Europea. Il Messaggero, centro pagina, un titolo curioso, Sarkozy con la Merkel mentre Carla partorisce, il riferimento è sia al vertice di ieri sera che alla nascita appunto della bimba dell'Eliseo. Ma il Messaggero, naturalmente, quotidiano di Roma, ancora dedica ampio spazio agli scontri nella capitale. Non siamo noi i Black Bloc, interrogati ragazzi arrestati durante gli scontri a Roma, caccia agli ultra nel video, così scrive il Messaggero. Ricordiamo che nella notte è arrivata intanto la decisione per cui 9 restano in carcere, 2 vanno ai domiciliari degli ragazzi arrestati, 1 invece è tornato a casa. La Repubblica, centro pagina, la vitola al vertice con l'Albania, la foto smentisce Frattini, una storia su cui sta puntando molto la Repubblica in questi giorni. Il responsabile della Farnesina si giustifica, incontro non ufficiale, la questione è che ci sarebbe questa foto, ci sarebbero dei filmati che dicono che Frattini ha incontrato la vitola in Albania. Frattini e la Farnesina dicono che non è vero. Repubblica pubblica questa mattina anche questa foto e pubblica anche una notizia curiosa, ve la leggo. Sorpresa, il cervello migliora dopo i 55 anni. Buone notizie per chi ha 55 anni o più, chi va piano va sano e va lontano. I 55enni hanno un cervello che funziona meglio di chi è più giovane. Se volete approfondirlo, La Repubblica questa mattina in edicola. Noi però torniamo alle notizie di queste ore e voltiamo pagina. Perché? Perché nella notte c'è stata una collisione al largo delle coste italiane, si sono scontrati un mercantile e una nave passeggeri, in questo momento sono in corso i soccorsi, ma per sapere cosa è successo e cosa sta succedendo in questi minuti io saluto il capitano di vascello Vittorio Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cosa è successo? Dunque, collisione fra due navi con l'affondamento siamo in acque albanesi, di un mercantile di bandiera maltese, il Reina Primo, che era diretto in Montenegro. Le notizie sono ancora poco chiare, però sappiamo che è affondata la nave maltese in acque fuori da quelle nostre, dalle acque territoriali nostre, e le 10 persone a bordo del mercantile quindi sono finite in mare. La nave da passeggeri che è entrata in collisione diretta in Italia, la nave da passeggeri Ankara, ha prestato i primi soccorsi e ha recuperato 3 persone, una di queste priva di vita. Naturalmente i soccorsi questa notte sono complicati perché c'è mare cattivo e un ribeccio, un vento che viene da sud-ovest. State ancora operando in questi minuti? Si sta operando, c'è una nave militare albanese, c'è una motovedetta della Guardia di Finanza di Stanza Durazzo, un mercantile moldavo è stato dirottato sul posto, poi altri soccorsi si accingono ad arrivare, ma chi tiene le fila del coordinamento sono le autorità albanesi, perché, ripeto, l'incidente si è verificato nelle acque fuori dalle acque territoriali. Nessun problema invece per i passeggeri della nave? Sembra di no, sembra che non ci siano problemi per i passeggeri della nave diretta in Italia. Grazie al capitano di vascello Vittorio Alessandro, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Naturalmente continueremo a seguire quel che sta succedendo nell'Adriatico, lo faremo con GR24 nel corso della mattina, torneremo ad aggiornarvi. Torniamo sulle pagine dei giornali, guardiamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, invece Milan, Ibra e Boa che morsi, ovviamente è questa la notizia che riguarda la Champions League, e poi cercasi erede di Del Piero, Juve, il capitano oggi incontra Marotta e continua a tacere, la Gazzetta dello Sport. Andiamo però, per parlare ancora di sport, con un altro collegamento, andiamo invece questa mattina negli Stati Uniti, dove nella giornata che qui ormai si è chiusa invece c'è stata un'altra maratona di trattative. L'argomento è il contratto dei campioni di basket nell'NBA, che ha provocato dal 1 luglio scorso il blocco del campionato. Saluto a New York Simone Sandri. Buongiorno Anna. Buongiorno, buonanotte. Simone, buongiorno, vero. Quali sono i nodi della discordia? Innanzitutto spieghiamolo in poche parole per chi ancora dei nostri ascoltatori non lo sa. Beh, sono due, principalmente sono due. È il dividersi, la torta generata dai proventi della NBA, che fino all'anno scorso era 57% dei proventi andavano ai giocatori e il 43% ai proprietari. I proprietari, non anche per via della crisi che ha investito l'America, vogliono cambiare radicalmente questa percentuale, vogliono prendere almeno il 52-53% a favore loro, dunque questa è una delle cause principali. E la seconda è quella della ristrutturazione della salary cap, cioè del tetto salariale, che è già ovviamente in vigore da diversi anni nell'NBA, però i proprietari adesso vogliono renderlo, solidificarlo, cioè renderlo, trasformarla da cosiddetta soft, cioè un tetto salariale leggero, a una hard cap, cioè un tetto salariale fisso dove non ci sono altimie, dove praticamente i giocatori alla fine guadagnerebbero meno soldi, ci sono meno possibilità per le squadre di questioni economiche, di questioni di cassa per i club e per i giocatori. Queste due. Ieri c'è stata una lunga maratona, oggi tu hai seguito di nuovo il vertice. A questo punto, entro il fine settimana, una decisione dovrà arrivare perché sono già saltate 2 partite. Esatto, ieri è stata veramente una maratona impressionante, siamo stati per ben 16 ore all'hotel ad aspettare le notizie su questo meeting fiume che doveva essere decisivo, almeno così ci avevano detto i vertici della NBA, e poi alle 2 di notte sono usciti David Stern e Billy Hunter, che visto nel commission della NBA, Billy Hunter è il presidente del sindacato dei giocatori, dicendoci che non era successo praticamente nulla, che avrebbero ricominciato a discutere. Ma c'è oggi margine per oggi un accordo? Esatto, oggi per 8 ore ne hanno discusso, non hanno trovato nessun accordo, non solo, non si sono neanche avvicinati, per cui si ritorna a discutere domani. Intanto però il tempo stringe, 2 settimane di regular season che doveva partire il 1 novembre sono già state cancellate, e adesso se entro venerdì non si troverà un accordo o almeno le parti non si avvicineranno, ma in modo deciso, e credo che altre due settimane verranno cancellate, con tutto quello che comporta, anche da un punto di vista proprio dell'impatto economico, con tutto quello che questo può comportare. Grazie, vedremo naturalmente che succede, continueremo a seguire anche questa trattativa. Grazie Simone Sandri da New York. Grazie a te, buona giornata. Prima edizione. Italia in controluce. È il 20 di ottobre, buongiorno a tutti, da Daniele Biacchessi. Da una parte l'immagine di una donna bellissima ma con gli occhi bendati, dall'altra quella di una donna con in mano spada e bilancia. Ci sono due tradizioni diverse dietro la rappresentazione della giustizia, che in Italia non è mai bendata. Raffaella Calanda intervista Adriano Prosperi, professore di storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha ripercorso la storia di questa iconografia nel saggio Giustizia bendata. Io penso che si tratti di due tradizioni diverse che esprimono due idee profondamente diverse della funzione della giustizia. Noi abbiamo una giustizia che esalta l'attributo classico della forza degli occhi, della capacità di vedere, perfino a discapito della funzione dell'ascoltare. Quando se ne discute all'inizio del Cinquecento nell'ambiente del Mantegna, c'è chi tenta di rivalorizzare l'attributo classico delle orecchie di Argo. C'è questo rimpallo tra un'accusa alla giustizia di non vedere ciò che dovrebbe, il fatto che i giudici si bendano con nuove regole che li astraggono, li allontanano dall'esperienza sociale, e dall'altro la risposta della corporazione e dei giuristi che il potere deve ignorare l'identità che ha di fronte. È contro la corruzione che la benda costituisce una garanzia, e questo porta alla diffusione nei paesi protestanti dell'immagine della giustizia bendata. Il fatto che la tradizione italiana sia una tradizione che abbia sempre privilegiato, diciamo, lo sguardo rispetto forse anche ad una terzietà, no? Che invece altro tipo di iconografia della giustizia bendata sembra invece trasmettere, è l'archetipo che porta a far sì che oggi l'Italia sia più vicina a una forma di spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie. Io penso che ci sia un aspetto inconfessabile in questo successo della visualizzazione di ciò che accade nel segreto, dalla Villa di Arcore ai tribunali della Repubblica, in questo piacere di ascoltare le conversazioni telefoniche, un senso di forte attrazione verso ciò che è proibito ufficialmente, ciò che è immorale. Ascoltare il mafioso che dice di aver sciolto nell'acido un bambino e che poi chiede tranquillamente perdono, vero? Stimola negli ascoltatori un senso della vacuità della giustizia e dell'illimitata capacità umana di delinquere, una capacità tanto illimitata quanto illimitato è il perdono che gli si può concedere. Si chiede il perdono, però poi l'Italia è un paese dove verso alcuni reati c'è uno slancio immediato di stigmatizzazione, di critica, però poi anche di dimenticanza, tutto ciò che ha a che fare con la corruzione. Non credo che ci sia una vera reazione contro la corruzione, penso appunto che siamo davanti alla preparazione dell'ennesimo condono. Era la prima edizione di Italia in controluce, torniamo oggi 13:30 Radio 24. Grazie come sempre Daniele Biacchessi, ancora una buona giornata anche da Anna Migliorati. Prima edizione, le notizie della notte. Mi ha raggiunto Laura Bettini perché si attendeva la decisione dei giudici per i ragazzi in carcere per le violenze di sabato a Roma durante il corteo. Cosa è successo, Laura? La decisione, come dicevi tu Anna, è arrivata nella notte dopo oltre 6 ore di camera di consiglio, quindi è stata una decisione sofferta, diciamo lunga. Dei 12 manifestanti che erano stati arrestati per gli scontri di piazza a Roma sabato scorso, 9 resteranno in carcere, 2 andranno agli arresti domiciliari, 1 solo tornerà libero. Hanno tutti al massimo 30 anni e per la maggioranza sono della zona di Roma. Uno di loro solo è romeno e per lui è stato firmato un decreto di allontanamento per motivi appunto legati alla pubblica sicurezza. La decisione è stata l'epilogo di una lunga giornata di interrogatori nel corso dei quali tutti però hanno respinto le accuse accuse e al momento in cui è stata annunciata la decisione dei giudici, i loro legali hanno sottolineato che a loro parere questi ragazzi rischiano di essere dei capri espiatori, i veri black bloc, hanno detto, si sono saputi difendere e sono poi scappati. Intanto la procura ha chiesto la convalida dell'arresto di Fabrizio Filippi, che ha 24 anni, è detto Erpelliccia, era il ragazzo immortalato in moltissime fotografie comparse sui giornali con un estintore in mano durante gli scontri. Ci sarà per lui presto l'interrogatorio di garanzia, forse oggi stesso. Le indagini però ovviamente proseguono per individuare gli altri responsabili di questi scontri e si indaga in particolare, a quanto pare, su esponenti di gruppi di ultras della Roma e della Lazio. Domani ci sono due grandi manifestazioni in programma in Italia, una proprio a Roma, dove non c'erano particolari allarmi sull'ordine pubblico, ma si sa che il sindaco Alemanno ha vietato i cortei nel cuore della città per un mese, quindi la FIOM manifesterà soltanto con un sit-in in Piazza del Popolo, niente corteo quindi per gli operai. L'altra manifestazione sulla quale c'era maggiore preoccupazione era quella della Val di Susa contro la linea ferroviaria ad alta velocità. In questo caso è stata comunque confermata la manifestazione, i comitati assicurano che non ci sarà violenza, ha commentato il sindaco di Chiomonte, Sandro Pinarde, che ha intervistato Raffaella Calandra. Per domenica non ho dei grossi motivi per essere preoccupato, sono più preoccupato per quello che oramai si dice in giro della Val di Susa, no? Addirittura c'è chi dice che quelli che hanno fatto due incasini a Roma si sono ampiamente addestrati in Val di Susa. Ecco sindaco, però anche da voi ci sono stati nei mesi scorsi dei momenti anche di tensione e anche lì si era, diciamo, parlata della possibile presenza di agitatori. Chiamiamoli corpi estranei alla giusta protesta. Questo l'abbiamo visto il 3 luglio, quello che è successo. Io non sono un notav, però io dico, un conto sono i comitati notav che fanno le loro contestazioni eccetera. Un conto sono questi personaggi qua che, anche se ci fosse da contestare il tartufo giallo, vanno a contestare il tartufo giallo. Domenica ci sarà, penso che andrà in modo diverso. Quando le manifestazioni sono organizzate e soprattutto seguite dai comitati, vanno in un certo modo. Quando i comitati sono in difficoltà, viene preso sopravvento altre frange, tipo gli anarchico, i insurrezionalisti, come si chiamano, i centri sociali, succedono queste cose qua come il 3 di luglio. Io vedevo anche chi girava per il paese. Quindi il fatto anche che ci possa essere stata una sorta di formazione di alcuni gruppi nelle vostre aree, nella zona della Val di Susa, lei stesso l'ha visto in atto? Nel mio comune vede arrivare di tutto. Grazie a Raffaella Calandra, grazie a Laura Bettini. Continueremo naturalmente, le ritroveremo tra poco in GR24. Nel frattempo però voltiamo pagina e parliamo di un'altra vicenda di cui molto abbiamo parlato a Radio 24. Sono passate 3 settimane dalle dimissioni del sindaco di Parma, Pietro Vignali, e oggi a Parma si insedierà il commissario, perché esattamente alla mezzanotte appena passata sono scaduti i termini di legge per le dimissioni. Quindi oggi arriverà il commissario, con ogni probabilità la stessa cancelliere che ha retto Bologna fino alle elezioni. Noi andiamo a Parma con il nostro prossimo ospite, Hassan Bassi, presidente cooperativa sociale Cigno Verde e presidente consorzio cooperative di Parma. Buongiorno. Salve, buongiorno. Voi tra l'altro siete tra quelle cooperative a cui in tutta la vicenda Vignali erano stati tolti alcuni appalti per darli ai privati. Oggi arriva il commissario, cosa vi aspettate? Guardi, devo fare solo una piccola correzione della presentazione, non sono il presidente del consorzio, sono solo un consigliere del consorzio. Un consigliere del consorzio. Ma insomma il mondo è quello delle grandi cooperative di Parma. Cosa vi aspettate? Le piccole cooperative sociali di Parma, e cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo quello che aspetta un po' tutta la città, cioè chiarezza e trasparenza, nel senso che quello che abbiamo subito un po' tutti in questa città negli ultimi tempi, che ci ha molto frastornato, è questa giostra di numeri sul debito, non debito, investimenti che diventeranno risorse per la città, debiti che invece ci trascineranno nella povertà. Quindi quello che ci aspettiamo principalmente anche noi come imprenditori sociali della città è di avere un po' di chiarezza su qual è la situazione finanziaria, quindi ben venga un tecnico super partes che possa aprire, come dire, gli archivi, gli armadi e spiegarci una volta per tutte cosa è successo. Qualche conto il Sole 24 Ore Centro Nord tra l'altro l'ha fatto: l'indebitamento complessivo supererà i 600 milioni di euro a fine anno, che per una città come Parma sono davvero davvero tanti. Prima edizione. Siamo sempre a Parma con San Bassi, Consorzio Cooperative. Diceva prima, benvenga, più una sconfitta o un sospiro di sollievo per Parma l'arrivo di un commissario? Guardi, la città è stata molto combattuta in questi anni per quanto riguarda il nostro settore, quello un po' delle cooperative sociali, dell'associazionismo. Il rapporto con Vignale purtroppo si è sciupato già da molti anni al momento del caso Bonzu. Il caso del ragazzo che venne picchiato dai vigili, a cui il sindaco non ha mai voluto chiedere scusa personalmente. E quindi, insomma, per una città che vive di sociale, di un welfare diffuso, di associazionismo, eccetera, questa è stata la prima ferita che non si è mai rimarginata nel rapporto di fiducia con questa amministrazione. Sicuramente, per come sono andate le cose, è un po' una sconfitta, nel senso che Parma per molti era diventata un po' la città della sperimentazione di queste anche alchimie finanziarie per un comune con 34 partecipate, con le attività tutte esternalizzate, eccetera, e questo sistema in cui la politica fa un passo indietro e forse poi ne fa anche due avanti, costruendo appunto 34 consigli di amministrazione, mettendo 34 direttori, 34 presidenti, eccetera. Insomma, un po' una sconfitta di un modello. È la sconfitta di un modello, diceva. Sì. Alla Cancellieri oggi cosa chiederete? Ma ripeto, la prima domanda che facciamo è quella di avere chiarezza sulla situazione finanziaria e capire anche che cosa succederà di tutte le opere che sono state messe in campo, i cui lavori sono iniziati, e capire che cosa succederà di questa città che è mezza invasa da tubi e da scavi. Pace all'interno della città, secondo lei margine ce n'è per ritrovare la pace in tempi brevi? La pace nel senso fra la cittadinanza sicuramente, cioè Parma è comunque una città coesa in cui tutti si conoscono, si parlano anche se non sono d'accordo. La preoccupazione però è forte, è palpabile in tutti i settori e appunto speriamo che il commissario riesca perlomeno a dare una visione oggettiva delle cose. Grazie a San Bassi, Consorzio Cooperative di Parma. Buona giornata. Grazie, buongiorno. Parma prova a voltare pagina. Naturalmente continueremo a seguire questa storia che abbiamo seguito a lungo a Radio 24. Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno. Io le strappo le pagine. Tu le strappi, eh? Sì, sì, sì. Con questa voce. Ma si sente oggi tra la voce e il suono della carta dei giornali, meraviglioso. Vabbè, di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo ovviamente di Banca Italia, di tutte le vicende della politica, eccetera, ma voglio darti due chicche di cui parleremo. Allora, intanto, Settimo Torinese è il paese che obbliga i disoccupati a lavorare in cambio di solidarietà. Cioè, ci sono molte persone che hanno assegni di solidarietà, il sindaco ha studiato questo sistema. Ti impegni a lavorare, ti do l'assegno di solidarietà doppio. Ma se io ti propongo un lavoro e tu non vuoi lavorare, ti tolgo tutto l'assegno di solidarietà. È una forma di welfare mutuata dalla Germania, molto interessante perché premia chi vuole darsi da fare, insomma. Bellissima storia. Molte altre, immagino. Sì, ce ne sono altre, come il ministro francese che su Twitter per sbaglio ha mandato un messaggio: vuoi fare l'amore con me? È un ministro francese, ma per sbaglio l'ha inviato a 13.500 persone. Chissà chi gli ha risposto. Vale. Grazie, molto altro come sempre, 7.20 la rassegna stampa e poi 24 mattino. Noi ci fermiamo qui, ci sentiamo però tra pochissimo subito con GR24. Ancora buona giornata da Anna Migliorati.